e cava cava. Dormi, dormi. Io ho finito adesso di mangiare. Davvero? Sì, davvero, sì. Ecco, mentre male, forse ti avevo. Sì. Ha pagato. E io mi sono fatto una rustica. Cavagata c'avevo del pollo, ho fatto la birra. Una squisitezza. E andate. Chiave, chiave. Ieri non ci siamo andati a Portotone. Ma mi lascio in campo. Non vedi che non si può andare in chimica quando me la metti a mano. A chi non posso camminare? Secondo dove posteggi la macchina? Come faccio ad andare io? Perché dentro al porto non stavano facendo parcheggiare? Vai, chi da via Sosa per susarrato. Da la zona di Valai, sarrami tutto, romantessi. Si fanno posteggiare in casino di Montebello. Lo so, è un casino, lì ci deve andare un bel presto, già lo so. Io parecchi anni che ci sono andato, ma non avevo questo difetto alla gamba che potevo camminare. Ah, ma cosa vuoi? Se no devi parcheggiare lì a San Giuseppe, alla fine, tanto le bancarelle da lì partono. O arrivano, come chiamiamolo, come vuoi. Ma bisogna dirigere le macchine, che devi posteggiare lontano. Ma cosa, non arrivi anch'io la macchina? Chi è Marco? Ma io scendevo presto, scendevo verso le 4 così, 4 e 5 lo trovavo lì di solito dove c'era il fornitore all'uscita. E lo trovavo il parcheggio, però devi scendere un bel presto. Ma io no, scusi, assolutamente no. Noi scendiamo che abbiamo il taxi giù per... Allora, sentivo, me lo dai questo 747? Sentivo, anche 5, anche 3, te lo porto io. Ma così, cosa mi figlia? 7, dimmi dopo, dai, cosa 3? Ah, 3 vanno bene, dai, non voglio speculare. No, Natale, la verità lo sta dando, lo sa anche Franco, lo sa qualcun altro che lo vuole lo stesso. Lo sto dando insieme a questa radio, adesso è staccato. Lo sto dando insieme a questa radio, 350 e 6 milioni di euro. Capito, radio, ecco, se no 300 e mi danno, però prima 300 euro la radio. E poi, se vendo la radio, do il lineare. Se no, prima il lineare e poi la radio no, capito? Preferibilmente insieme, capo. Chiamo, capo. Sì, ok, andrà bene, Neda. No, perché no, qua io c'ho solo la potenza di questo, no? Cosa va? Curi i batti di ghiaccio, manca la andriga. Ma se ti basta solo il baracchino, chi ce ne va, che è buono. Questo c'ha 80 sopra, 80 sopra, un vacche regolabile, ecco regolabile, squelce, disinseribile, trimmer, cioè potenziometro che gli ho messo dietro per regolarsi per l'ascolta, si bacia ghiaccio, su un baracchino, aspetta che basso l'ecco che se no non mi capisce. Hai capito? Eia! Ma non me ne faccio niente di quello lì. Faccio ghiaccio. Ho capito. Capito, però quando c'è da fare c'è botto, c'è la convenienza che con questo abbassi tutto e farlo in locale. Quando c'è da fare c'è botto, o su 45 o dove vuoi, aumenti e ti sento, capito? Senza bisogno neanche di lineare, perché questo c'ha già i suoi watt. Già lo so, ma io non ci vado a 45, no, non me ne frega niente, se no anch'io le cose fallisce. Non ne pongo mai a chi non mi piace. Chiava. No, c'è uno, ma che tu da subito, una settimana entrante mi ha detto che è qua. Non so, mi stava scrivendo da subito.it, ma la settimana prossima vengo e me lo prendo. Poi sai come c'è la gente, no? C'avevo un QTC con la 50 qua, ci vuole una favidaeta, non comprendo il servizio. stavo dicendo che mi stava scrivendo uno tramite da subito.it, no, però ho messo anche lì, mi ha detto che la settimana prossima deve venire qua, viene se lo ritira, ma poi sai come la gente, no? Ma che informazioni, quanti watt da zero al massimo, quanti watt di picco, quanti watt collineare, tutte le informazioni gliele ho date. Chiara, chiara. Questo qua fa con i watt a zero, con 2 watt fa fino a 15 watt, con i watt al massimo fa fino a 35, con i suoi 12 watt. Fino a 35 modulato. Sì, già lo so che pompano quelli. Luigi Vulcano la via uscima adesso. Ah, poi ha fatto un amico di Falco Azzurro, Damiano, l'ha fatto questo, non è che capito. Era fatto un cepizzo, lo vedi dentro di mangiare le mani in capo. Sì, me lo posso immaginare, avrà il doppio modulatore, tutte queste cose qua, la scheda dei canali, il bip, la scheda del coso, dell'eco. Beh, ecco, effetto elicottero, tutto quanto va. È un semplice panel 48, modificato a tipo 68 con canali su e giù, eccetera, eccetera. Sì, ho capito, infatti manco le premie hanno, perché devono togliere un bel di roba per fare posto a quella roba che ci va dentro, infatti bisogna un trono, già li conosco già. Esatto, questo al posto delle fremme c'è il canale di sopra, per esempio se io adesso dal 10 il tastino lo porto in FM mi va al canale 50, capito? Mentre quello della ANNB se lo premo in basso mi va nel canale di sotto, mi lampeggia per farmi capire che sono per dire 50 ma di sotto, capito? No, è un bel apparecchio, Natalia, un bel apparecchio. Come, come! Addirittura c'era quello di una persona che gli passavi la calamita e ti toglieva le modifiche, gliela ripassavi e te le tornava a mettere, cazzo, ma di russo, c'era gente che lo schiumava dentro per non vedersi le modifiche, figurati. E l'ho avuto quello lì, Natalia, la forza di passare la calamita era tutto scolorito, però faccia perdere, perché erano quelle calamite a neodino, capito? E quando passavi, strusciavi sopra al chiese, si ne mangiava tutta la vernice, neanche. È una modifica del manga quella. Sì, la facevano i camionisti quella modifica lì per far vedere che era normale la carica invece un cavolo che era normale. Infatti, però ripeto, quella calamità lì era un casino, perché la strusciavi e ogni volta che la dovevi togliere, perché sono calamite dure, quelle al neodino, sono quelle degli hard disk, cazzo. Ogni volta che la strusciavi mi bucava la vernice da rotato. Viene della sua fisica. Non ti strusciato mai, perché poi appunto ogni volta che devi togliere le modifiche, cazzo, devi spostare la calamita, sì, che invece così col tassino secondo me è meglio. Sì, vabbè, già me lo visto, c'era per avere qualcosina in più, per metterlo qua, perché cazzo, se no dimmi la monta, c'è roba che ma giocava di tutto, perché va chi c'è chi non va giù rubi, no? Te l'ho detto, io ti mando il link di quelli che lo fanno avanti. Sì, già me la raggia bucata, anda bene mela, adesso vado e mi faccio un riposino, al limite se sentiamo più tardi. Vado sugli archeologi. Ehi, intanto sto facendo roba qua in stanza, va bene, a più tardi allora. Ciao Luca, alla prossima. Briciola, su che andiamo, su, nuova corsa, nuovo giorno. Attento briciola. Su che andiamo, su. Su che andiamo, su. Su che andiamo briciola, su che andiamo. Come on. Hey, sa tutto il suo volume, vedrai come c'è, come c'è anche di un altro. Oh yeah, che è un volume? Il manacchino, cosa è a te pure della bascia? No, me l'ho sentato, ragazzo, una bascia, cazzo pure la bascia, me l'ho sentato un altro, perché chiamato è stato? Cazzo, niente già riposo subito, cazzo si dice, però... ci viene della begola di pozzo d'orra, vai ancora. Ah, sono andato in bagno un attimo, cazzo, riposo subito. Davvero, davvero. Mi fa svegliare? Appena. Dai, cazzo, ti smonta tu, a dove tu, per riaccare. Mi sa, ti fio a revito. Mamma mia. Brigida. Cos'è tu? Che c'è caldo. Ancora la risulta. Abbiamo fatto mettere a pompone che cucavano bene, sempre cucavano. Ma ho pagato intorno alle, si sono pagato delle lire ancora, non ve la vedo, ho pagato sulle 100-150 mila lire, una cosa del genere. E un bel cucciamo. E l'altro l'avevo pagato il cazzo da trave, quello digitale, Coldex, ma cazzo di macchina, 2 gennaio, non si vede un cazzo. C'era l'Elbex. Ah, l'Elbex, sì, l'Elbex, che era di digitale, che era nero e grigio, davanti era grigio. E da Pulsantini, sì, sì, sì. Cazzo, sei bravissimo. Chi si vedeva più coi pancura? Sì, bello. Quando avevo cambiato col 548 sembrava che mi aveva usato 40. Era bello comunque. Il 548. Poi il 500S erano belle quelle radio lì, cazzo. E ancora ci sono in circolazione. FM500S? Ed era simile a 548, solo che la, mi sembra che andava fino a 34, era il set. Quelle erano belle, quella via Mario Maui su Bulu, e c'erano belle quelle là. Sì, per la buia. Pucci, Pucci. Ehi, ciao a tutti, sì. Costavano perché erano omologate. Mi ricordo che appena era uscito nell'86 mi pare, l'FM500S da Cineradio l'avevamo pagato 200.000 lire tonde e tonde. Appena uscito però. Figurati, io mi ricordavo, io se non fosse qualcosa in più l'avevo pagato, io ti ho detto 150 il 548, cazzo costava. Comunque Emanuele, cioè era carino il 500S perché era con le manopole cromate, però la modulazione era cupa, cioè a me non piaceva, la ricezione non piaceva. Però sai, all'epoca quello avevamo, quello usavamo. E poi avevamo preso anche il 548SX, quello che avete detto prima, quello tutto grigio. E avevamo preso la scheda anche per l'espansione canale, ti davano la scheda con la serigrafia, ma meno 40, 40 più 40, e avevo anche la staffettina per fissarla all'interno dell'apparato. Quello era divertente. Se Luca si ricorda, io quel 548 l'ho venduto grazie a Luca, credo di ricordare così, che mi aveva procurato l'acquirente, e mi vergognavo a chiedergli 50 euro, lo sai, ce l'avevo dato a 50 euro, perfettamente funzionante, tutto c'era, microfono originale, staffa originale, quindi con i pomelli originali e il cavo di alimentazione originale, tutto funzionante. Vai Luca, te lo ricordi? Sì, ce l'avevo in concessione, 540, ma i colpi che prendevo, perché poi qua vicino a me c'avevo gente con radio HF, tipo 140, 440, mi ammazzavano. Anche io ce l'avevo sulla concessione, 540. E lì allora erano tutti con gli HF. Eia, però vedi, molti hanno lasciato la 27 perché c'erano alcuni con gli HF con tanti watt, ben più di quelli che usavamo noi, anzi se eri vicino a loro, più eri vicino più pompavano, così ti facevano battimento zero e certi si sono venduti tutto perché ci sono tutte le scatole. Se invece tutti avessero usato pochi watt, tutti sarebbero riusciti più o meno a modulare e magari sarebbe rimasto qualcuno in più. Vai tu. Aspetta, facciamo una prova con l'accordatore. Comunque Marco, erano bei tempi, dai, erano bei tempi. Io quando modulavo, sì, ho avuto il primo inizio, ho avuto il portatile, poi ho iniziato con il 548, l'Airbex, poi ho preso l'ultimo, poi avevo preso il 440, quando ho preso il 440 era tutta un'altra musica. E tu ti ricordi in che anno hai iniziato? Allora, in che anno era, mi sembra lì, quasi 85-90. Ah, dopo è rientrato dopo di me. Io praticamente sono entrato in estate dell'84, mi pare ad agosto, tipo luglio o agosto dell'84, e anch'io ero col portatile, un bel portatile per l'epoca, e che ho beccato per primo, già lo sai, no? C'aveva il radar, per i ragazzini c'aveva il radar. Ehi, a Paoletto Falcone, questo sì che qui. Sì, ma lui però strategicamente si metteva nella zona dell'11, e tu dici perché il canale 11? Perché quando compravi i portatili per la 27 ti davano di serie il quarzo del canale 11, quindi lui stava lì in zona perché sapeva che qualcuno tenero con qualche portatilino lo trovava sempre. E io avevo 13 anni in quell'anno, 13 anni avevo nell'84. Ne avevo compiuti 13 proprio quell'anno lì, e figurati, quindi... Certo, di tempo, che tempo veramente, ma ancora si trova lui. Paoletto, sì, si trova, ma non solo, un giorno sì e uno no chiama a casa, sperando che risponda io, ma io lascio detto a mamma che non ci sono mai. Perché sa cos'è, poveraccio, mi fa anche pena. Lui aveva un problema col decoder, la sorella non lo sa risolvere, il marito e la sorella, se ce l'ha ancora, non sa fare una minchia, scusando il termine, perché ascolta. E voleva a me per cambiargli il decoder, comprare un decoder adatto, perché non vede più i canali, no, con la storia del nuovo codec di trasmissione, l'HDTV, eccetera. No, scusa, H265. Però francamente io non ci voglio andare, perché Paoletto ha questo vizio, si attacca come le zecche, capito? Io non voglio scocciature. Sì, lo so che era una persona che quando iniziava non si mollava più. Però poi ti faceva a pezzi dietro, come faceva con Modigliani e la moglie. Loro lo portavano a fare queste gite, lo portavano alle partite di calcio e tutto, e poi lui dietro ne diceva peste corna, capito? Senza motivo poi, vabbè. E infatti già rimaneva solo, poi lo mandavano al diavolo tutti. Capisco che possa essere, vabbè, una persona malata, però poi ti cercava, anche quando tu non mettevi portante, dava i numeri di telefono di tutti, tra cui il mio. E secondo lui ero io, vabbè, allora visto che ero io, allora li mettevo portante anch'io, e li mettevo tutti, perché faceva così con tutti, E allora peggio Baidu. Luca, sei rientrato? A comprare l'antenna, sempre a comprare. Sì, Luca sempre mi manda foto, video di roba che sta creando e sta costruendo, un po' di roba, sta sempre facendo roba. Perciò entra poco in radio, capito? E sta sempre inventando, costruendo, tarando, di tutto. Poi c'è anche una bella... una strumentazione buona. Già quel... come si chiama il coso d'antenna, poi non l'accordatore, uffa, l'analizzatore d'antenna costa già un patrimonio. Quello che costa, sì. E più tutto il resto. Ecco qua, il microfono già regolato bene. Bella giornata, volevo fare un giro in telefonata a vedere se potevo uscire un po', però mi sa che me la prendo in quel posto. Comunque sta facendo davvero caldo, sta cominciando a aumentare troppo, io già ne soffro così. Hai visto a luglio, agosto, ciu. Mamma mia, sto tenendo io, sto tenendo veramente, mercoledì. Cazzo, ieri sono entrato alle 5 del pomeriggio fino a stamattina alle 8. Beh, alle 5 c'era un caldo che si crepava fino alle 7 e mezza, 8 di sera, c'era un caldo che si crepava. Figurati se sono di giorno, il giorno che capita che mi mette di giorno, io screro per far sole. Portati l'ombrellone, il tavolino con la sedietta e le birre fresche. Troppo caldo, e poi lì è un casotto perché sei sulla strada, che lavori, e quindi quello che hai fatto davvero, a costo di farmi fare osservazione, mi sarei pulato l'ombrellone, quello col treppiede, col basamento pesante, un tavolino e una sedietta e qualcosa da bere, a costo di, non dico birra, ma perché sai, se sei in servizio magari ti dicono cosa, ma se c'è altra roba non ti dicono niente. No, non puoi farlo così, Marco, non puoi. Non puoi, devi stare lì a guardare da un segretario dei semafori che ci sono a batteria, quelli grandi. Tu devi stare lì a guardare da una parte all'altra, anche le macchine che passano anche col rosso, è un casino lì, non puoi neanche mettere un tavolino lì, ma stai scherzando, cazzo di rimbalzare in alto. E non c'è una piazzola in corrispondenza, no? Intanto tu con la macchina ti devi fermare, non c'è una piazzola di sosta lì. Lo metti aderente alla muso o alla parte dietro della macchina. No, perché a morire al sole è brutto, cioè, io ci morirei, sicuramente ci morirei. Lo so, è brutto sì. Io sono stato l'estate scorsa, ho fatto 15 giorni ad Alghero perché c'era il campionato del rally. Eravamo al sole dalle 7, anzi forse anche prima, dalle 6:30 che sorgeva il sole, cazzo, fino alle cosa ti dico, 8-9, anche le 10 di notte in piedi. Arrivavo a casa che eri bello cotto, ma non di bere, no, dal caldo. Passavano queste persone, che siete belli abbronzati, sì, belli abbronzati. C'è da rispondere, mi si sono abbronzati puro lì. Appunto, la gente passa lì, siete belli abbronzati, brillavano il blu baruguro, no, belli abbronzati siete. C'era uno, l'altro mio collega, cazzo sembrava cazzo, un marocchino veramente, cazzo scuro era. Eia. Quindi se hai la possibilità mettilo il baracchino in macchina, almeno un po' di tempo lo passi, non ti basta più. Portati da bere, acqua, tanta acqua, quella è importante, anche per bagnarsi la testa, i capelli ogni tanto li bagni, e così facevo in macchina in estate, quando dovevo andare al mare, mi bagnavo la testa, ma di brutto, anzi io proprio mi buttavo la bottiglia che avevo in giosso in testa, anche grondante addosso, non fa niente, altro che il clima, molto meglio l'acqua. E adesso vado un po' alto perché devo cambiare prima la batteria che è mezzo bacciuta e quando metto a caricare il telefonino, figurati, me la butta già giù e quindi non mi parte più perché è mezzo partita. Dovrei mettere la batteria nuova, è un 54 ampere di batteria perché è un 44, è piccola pure. E poi vediamo, dai. Sì, la voglio mettere per quando vado a lavorare, se sono in servizio dalle 5 così una chiacchierata quando ci siete voi, me la faccio, con la mezz'oretta, dai. Ehia, poi ce l'hai un'antenna di macchina, non so, base magnetica oppure a gronda, come la puoi mettere lì? Sì, no, ce l'ho quella, la PL800 c'ho, non so se è la PL800 o la PL1000 con la base magnetica. E a voglia, l'importante è prima era acceso, io ero in cucina, stavo pulendo un po' i piatti, no? E sentivo qualcosa appunto che eri con la batteria, quella mi raccomando cambiala perché è importante, perché se poco metti il baracchino con la batteria a terra, e soprattutto come ha detto Luca, non la mettere con la accendisigari, perché per attivare l'accendisigari, almeno nella mia, devi accendere il quadro, se accendi il quadro ti attiva anche la bobina e quindi oltre che bruciare la bobina, vabbè quello è raro, puoi anche scaricare la batteria, ma di brutto te la scarica. e quindi molto meglio l'attacco diretto alla batteria, capito? E soprattutto la batteria nuova, comunque, tanto mi, guarda, non c'è nemmeno bisogno di andare dai cinesi, basta andare dai cinesi, no, da Bricoman, Tecnomat, hanno tipo le Varta, 50 euro, 45, 50 euro li paghi, però almeno sono di marca Varta, poi vabbè, che siano fatte in Cina non so conto, però sono ufficiali Varta vere e proprie, capito? Ne hanno tante marche. Sì, sì, lo so, ma anche da carbone ci sono in offerta pure, per pagare poco. Vabbè, adesso vediamo, però prima voglio sistemare questa cazzo di batteria, cambiarla, poi vediamo un po' se fare, le tentate qua, con pezzo di cavo dalla batteria direttamente e farla andare dentro. Vediamo se Luca è rientrato. Sono qua sistemando adesso, riprendete voi. Sì, io a breve stacco che cerco di fare, se posso, una commissione, ma ormai è già tardi, cioè devo farla dall'ora di pranzo, vabbè. E adesso cosa ti volevo dire, Emanuele? Io le batterie le ho prese sempre da Auchan, no? Marcate Ursus, marcate Varta, no? E ormai le batterie più di 3 anni non duravano. 3 anni massimo e poi non ce la facevano più. Una volta il meccanico, siccome ero proprio fermo, sono arrivato col caratrice al meccanico, me l'ha messa lui la batteria e mi ha messo la magnete Marelli, della stessa potenza, lo stesso ampere, 113 euro, e mi sono illuso, ho detto vabbè, è buona, durerà più di 3 anni, e invece un cacchio, massimo 2 anni e mezzo, 3 proprio al limite, 3, e la batteria da buttare. Quindi come vedi non c'è marchio buono o no, sono tutte uguali, alla fine sono tutte fatte in Cina, e quindi tanto vale comprare quelle da 50 euro, 45, 50 euro, 55, dipende dalle offerte, capito? Sì, sì, le batterie durano poco, massimo un anno ti durano, un annetto ti durano queste batterie qua. Vabbè, adesso vediamo un po', adesso, sì, se la metto davanti della Varta o della, c'è l'altra marca che era non buona lo stesso, però l'importante vanno bene, un anno, quello che è, l'importante che sia nuovo. E niente, sì, a me me la butta lo stesso, me la butta giù quando accendo la il telefono, perché devo girare il quadro per far andare la CDC, però per non buttarmela giù, per non lasciarla a piedi, devo lasciare la motore accesa, Marco, e quindi la faccio caricare un po' il telefono e poi la spengo, se no già 2 volte che mi ha fregato mi ha lasciato a piedi, ho dovuto chiamare, meno male c'erano dei colleghi, sono venuti, c'avevo i cavetti dietro al cofano, attaccate i cavetti e partite subito. Eia, però in effetti se si scarica per un cellulare caricato vuol dire che è proprio al limite, al limite, quindi quando puoi, appena puoi, cambiala. Eia, guarda, le batterie, ti dirò, a me in quella Opel Agila mi stanno durando circa 3 anni, 3 anni. Diciamo, la macchina adesso la stiamo usando poco perché vabbè, mamma è così con le gambe, un po' bloccata a casa, però sì, 3 anni massimo, è massimo 3 anni, io infatti li segno il mese e l'anno quando le installo col pennarello, e tutte così sono, Varta, Ursus, tutte quelle marche che avevo, Shan, che avevano anche Bricoman, massimo 3 anni, non di più. Io mi ricordo invece quando ero piccolo, molto piccolo, quando nonno cambiava la batteria alla macchina, io mi ricordo durava una vita, durava anni, te ne dimenticavi della batteria, te ne dimenticavi proprio, probabilmente la qualità era molto migliore. Sicuramente sì, sicuramente sì, e me lo ricordo anche mio padre, cazzo, cambiava la batteria, sì, e quando abbiamo cambiato la batteria, vabbè che c'erano prima quelli a quei tappi dove mettere la palistellata, caricarla, e anche per quello che ti duravano di più. Sì, è vero, è vero, io mi ricordo è vero, avevano le tappi e quindi ogni elemento lo potevi raboccare con acqua distillata, invece adesso sono sigillate, a meno che non spacchi i tappi, ce li ha di plastica, come dire, mi sembra pressofusami. Vabbè, però se la rompi poi rischi di perdere liquido o di fare danno. Lì le potevi raboccare e magari ti duravano di più, quello è vero. Questa una volta che si asciuga un elemento parte tutta la batteria, basta anche un solo elemento. Sì, sì, basta una sola e ti si brucia tutto. No, non c'ha più il coso suo della batteria. Non serve niente. Io ho fatto un giro nei negozi, non ne trovo più, non ce ne sono più quelli con i tappini, aprivi e le caricavo, gli elementi. Non ce ne sono più, sono tutte con questo cazzo di pallino verde, quando è carica, quando è buona è verde, quando non è buona ti segna che è da buttare, ma che cazzo. A me me lo segna sempre e la batteria non si va mica. Sì, anche quello serve o non serve, ci vuole il tester, quello, come dire, vabbè, quello per macchina, che poi è un tester normale, cioè te ne accorgi anche vabbè, come dire, ma non te lo so spiegare, dai. Ci vuole il carico fittizio. Io mi accorgo anche quando non carica, cioè col tester li vedo quanti ampere riesce a caricare, ah no, aspetta però. E no, quello supporta 10 ampere, allora non è quello che volevo dire. Lu, dillo tu. Non puoi col tester di ampere, puoi solo il volt, ma i volt non significano niente. Ci vuole carico fittizio, anche per le batterie esistono. Tu gli attacchi il carico fittizio e lui ti dice quanti ampere la batteria riesce a darti, a sopportare, capito? Allora sì, che puoi dire questa batteria è ancora buona, perché 12 volt non significano niente rispetto agli ampere che ti deve dare. Sai quale stavo dicendo io? Quel cacchio di... mi sono incasinato, quel testerino del cavolo della macchina, però quello ti dai volt solo, dimmi che volt, puoi avere 12 volt però capacità nulla, 0 ampere e la macchina non parte. Esattamente, come le pile, le classiche pile, ti segnano per dire 1,3, 3,7, però poi le attacchi dici, che strano, non mi è durata niente, eppure la carica, no, non è la carica, e così sono le batterie della macchina. Per vedere devi avere sempre un carico fittizio, che esistono, tu lo attacchi lì, gli dai gli amperaggi e vedi un po' se lì lo supporta, capito? Come si fa anche con i pannelli solari, io lo faccio anche con i pannelli solari, perché ti dicono per esempio 12 volt 100 ampere, capito? Ecco che il carico fittizio ti dice sì, questo pannello ti dà questi ampere qua. Io quello che ricordo che avevo trovato una specie di kit, più che trovato fatto, cioè erano come delle resistenze più una lampadina, e in base a quanto si accendeva la lampadina era come un carico fittizio alla lampadina, però vabbè, le resistenze per forza ce le doveva avere. L'ho trovato su un giornaletto vecchio, cacco, sì, praticamente ti indicava la, credo non il voltaggio, proprio la capacità. È come quando io testavo l'alimentatore, quello che hai anche tu, gli attaccavo tutto lineare, tutto, gli attaccavo tutto l'attaccabile per vedere se andava in crisi, praticamente. Esattamente. Fatto sta che non ho trovato né quel piccolo circuitino, questa roba che poi l'avevo fatta al volo, mi volante, e né il libretto da cui l'avevo copiato, forse era un ciclo elettronica della Nudremi. Comunque, Emanuele, ti volevo dire. Dimmi, Marco. Allora, in realtà, non so se la tua macchina ce l'ha questa cosa, cioè io posso alimentare la spina accendisigari anche senza avere il quadro acceso, ti spiego. Tu hai la macchina bloccata alla blocca sterzo, no? Nella mia tu fai il primo scatto con la chiave e il blocca sterzo è mollato. Fai il secondo scatto e ti arriva la corrente all'accendisigari, però il quadro è spento, e solo col terzo scatto ti si accende il quadro. Io invece lo tengo spento il quadro, però l'accendisigari è servito dalla batteria. poi vabbè, se fai il corto scatto, che poi non è uno scatto, c'è l'avviamento col motorino, col motorino, no, fa partire il motore. E comunque, boh, in effetti se puoi passare un cavo è sempre meglio, però un cavo che sia sottofusibile, perché se poi ti tocca qualcosa, il positivo, ti tocca il telaio, sarà un adutto, mettici un fusibile. Sì, sì, no, ma se lo faccio, faccio fare, mica, io non dico queste cose, non ho mai fatto. E cos'è, stavo dicendo? No, no, io il mio quando giro il quadro non c'ha il primo, il secondo scatto. Quando lo giro appena appena non va corretto, non va corretto alla scendisiga. Devi per forza girarlo tutto il quadro. Ma non ne fa nemmeno due, perché uno serve a credere a sbloccare il bloccasterzo. A me, vabbè, da me è così, poi non saprei, quella è un Opel, però è comoda questa cosa. Invece ho sentito alcune macchine devono tenere per forza il quadro acceso, però il quadro acceso è doppiamente pericoloso, perché ti scarica la batteria, ma potrebbe, a me non è mai capitato, anche lasciando acceso, bruciare la bobina, dicono. Luca, ti è mai capitato a te? No, mai, mi cago, io ho attaccato il baracchino anche, però vabbè, io mettevo batterie maggiorate di poco, perché sennò non ci stavano poi, però ho mai sentito di questa bobina. No, ma no, al secondo scatto c'è il colibrì. Ma secondo me quello capitava sulle macchine antiche, nel bruciare la bobina. Cioè, macchine antiche, adesso è tutto accensione, roba elettronica magari diversa, mica, non, almeno credo, non saprei dirlo. Raccontavi Romanuela, che non usa Marco. Ah, devi glielo sai spiegare meglio. Hai detto, ti caparri già te. Marco. E io. Una volta siamo andati a Fiume Santo in campeggio di Emanuele, cazzo, buchiamo col colibrì, era uno scooter dell'epoca, il colibrì, tipo lo scarabeo, dai. Poi buchiamo, vabbè, eravamo quasi arrivati, ci accampiamo, avevamo le di pollo, cazzo, non ci avevamo magretto, prendiamo e usiamo un filo di acceleratore, sai, quelli della moto, no? Lo usiamo come girarrotto e ci siamo arrostiti le ali. Il giorno dopo, per tornarcene a casa, prendiamo la camera d'aria e la riempiamo di sabbia. Immaginati, con le tende, tutta la roba. Però avete avuto l'inventiva, vedi? Ad altri non sarebbe venuto in mente. Poi ci avete messo la sabbia e bene o male ha fatto l'effetto cuscino e siete riusciti a tornare. Però avrei voluto vedere la cosa del cavo dell'acceleratore usato con il piedino. Tutte te le inventavi, No, siamo arrivati fino a ottava. Poi abbiamo telefonato, quindi ci apprende. Una volta eravamo nella goletta, avevo già fatto la mamma, te la metti. Gesù, che pazzica. Erano belli quei tempi. Ma il colibrì di cos'era? Piaggio, Malaguti, cos'era? Allora, erano, Marco, non so se ti ricordi che facevano quelle offerte alla televisione, che ti davano la moto, o dovevi comprare la batteria da cucina, no? E ti davano queste offerte qui e potevi scegliere sia la moto o l'impianto stereo, no? Della Schneider era, mi sembra, l'impianto stereo degli anni 80, 80-90. E io, cazzo, ho preso questa moto qua, ma per carità, andava perché andava, non ti lasciava mai a piedi, cazzo, in salita camminava come un treno in due. Solo che era una moto, cazzo, che non valevano un accidente. Ho capito. Cavolo, guarda, io una cosa del genere l'ho vista, senza le pentole però, venduta da sola, da Auchan. Questa moto senza marca, cioè chinese, no? Non esisteva marca, non esisteva assistenza ufficiale, officine, c'era solo un importatore per l'Italia, manco per le zone singole, per l'Italia. Ma roba che se ti serviva un ricambio, addio, ci buttavi la moto, per un ricambio banale. sì, no, non avevo il cane, non ce n'erano neanche dei cambi di quella moto lì, non ce n'erano assolutamente. Era una moto, boh, non lo so da dove provenivano quel cavolo di moto lì. Però ti ripeto, camminavano perché camminavano in due, in salita, cazzo, camminava come un coso, camminava. Sai che non serviva a niente, se ogni tanto ti si rompeva un pezzo, ma era una moto da... addirittura un giorno è venuto, quando l'hanno portata questa moto qua, è venuto questo manetto, me l'avevano detto perché io stavo lavorando all'epoca in un cantiere, e è venuto questo nano a piazzare questa moto, non saprà neanche lui come si piazzava. Ma io per quello, per gli scooter prenderei Piaggio. Sì, è bello l'SH125 per dire, ma Piaggio è italiana, e i ricambi li trovi anche da Mariani, se esiste ancora, da dovunque vai trovi i ricambi Piaggio, ma anche nei paesini, capito? E vabbè. Ok, io bianco per me, io faccio una pausa, vado a bere e non solo. Vai Luca. Sì, dai, rimango in ascolto anch'io, che finisco di mettere a posto qua, vediamo un po' se entra Natalino qualcuno. Dai, mi assento, tanto no, a stare qua, ci sono 26 gradi, mi scioglie la testa, beh. Ah, sì, sì. Vabbè, ah, ormai sole alto, sicché non ce l'hai più lì, ma non è. Ma tu devi vedere a verso mezzogiorno, e tu già lo sai, cazzo, il sole che batte qua, non so, non riesco a trovare di quelle tende scure proprio per il sole, però cazzo, ma è un micidio qui dalle 8, dalle 7 c'è già il sole qua. Io vedo i buoni un frangivento, ma ci spanno la tenda, siete quasi ombra, ma ti accumula ancora più caldo. E ho la carta di bongo. Un frangivento, bongo. Un frangivento. Sì. Quelli verdi o neri, verdi è meglio, c'è anche bianco, ma almeno ti fa ombra. Sì, quelle tende per il sole, sono tende quelle con gli anelli, sono. No, questi si mettono fuori. Capito, si mettono fuori questi qua, non sono, non è tenda, è tipo una retina. Ah no, fuori no, io cosa cazzo vuoi, io sono animali, so, cazzo l'ha messa uno quassù, cazzo la lampada della cicca, cazzo la briglia di fuoco. Sono per fuori, ma tu la metti dentro, ti sto dicendo, non io dei buoni fuori. Ma come cazzo fa perché l'ha detto lui? Come metti la tenda normale, metti quella. Ma io non ho capito quale tenda stai dicendo. Metti sul telefono frangivento, bianco, verde, nero, c'è di tutti i colori. E quello con quella lì non ti entra solo? No, perché non ce l'ho, è una vita che si usa. Devo vedere, perché qua le fatte si muore da un gas. A parte che il caldo ti entrerà lo stesso, Ma quelle fanno ombra, capito Manuel? Invece le tende, quelle classiche, sì, ti riparano dall'ombra, ma ti incubano anche il caldo. Certo, frangi il vento, qua c'è una cazzata. Devo guardare, perché cazzo, si muore ogni volta. Io quando arrivo all'estate qua temo, a parte che ci mangio poco e niente il mezzogiorno, se mangio la sera. Si mettono anche attorno ai gazebo, al mare. Sì, l'ha messa, sì, l'ha messa anche mia sorella a casa sua ad Alghero, in cosa, se babù sono, in canna, come ti so. No, è una rete, è una rettina, Emanuele, come ti devo su, guarda, su, scrivi, frangi il vento. No, tu stai dicendo con le arelle, no. È una rete morbida. Aspetta che guardo. L'unica è quella, io ce l'ho qua per l'estate appunto, se no si muore dal gaglio, almeno quella di fa ombra, è molto comoda e fa passare l'aria, invece la tenda normale, aria non ti viene più bassa. Sì, qua ce l'ho verde, la vedo, su internet, quella rete morbida, srotolabile, la mettono anche intorno ai cancelli dei giardini per non stare a farsi vedere troppo in giardino da chi passa fuori, capito? te lo offusca molto, dai, la visuale. Sì, la vendono anche i consorzi, la vendono, chi vende piante, queste robe qua. Sì, allora la usiamo qua, ma questa è solo per mettere nel balcone, né? Un vaso, regala col film di ferro, oh, ma non è tenda quella. Però Manuel, è l'unica che non ti soffoca quella. Catena normale sarà bella quanto vuoi, ma ti soffoca. E quanto cazzo ve la morisca? Catena normale, né più né meno. Oh lui, certo è che quando l'aria è bollente ti passa dentro casa, eh? Figurati con la tenda normale, Marco. Vabbè, però diciamo la tenda normale fa anche da schermo, però lì è tutta microforata. Non so qual è il male peggiore, buh. Se no, Manuel, prendi quella pellicola oscurante, molto bella, comoda, e la mettiamo nei vetri. Quella lì, tranquillo, che ripara parecchio. Allora sai, a proposito, te lo volevo fare una volta. Allora sai, per farmi il vetro oscurato quanto mi hanno chiesto? Minimo 400-500 euro, dai 4 alle 500 euro. Solo i vetri di sotto, quelli che si aprono. Vai, ma le prendono queste pellicole, le compri. È una cazzata punire, e fuori rimane, può rimanere a specchio, può rimanere come la scegli tu. Io una cosa così volevo fare. Sì, perché quella fa rimbalzare il sole, dai. Una cosa così, che la tenda la volevo togliere e mettere solo questo cavolo di coso qui che vedevo io da dentro, vedevo fuori, e da fuori non si vedeva dentro. Ormai le stanno usando, sì, negli infissi, fuori rimane a specchio, però da chi è dentro ti vede a te, è vero, sì, tu puoi fare l'amore dentro casa e non ti vedono da fuori, però Marco? Per andare in crociera, no, là, buonasera. Ciao Gianni, oh, forse vogliono guardare, volevo, posso anche guardare, se gli fa piacere. Marco è specializzato, va su al monte, non ci andate lì che c'è sempre lui. Ha cambiato zona, prima andava a San Francesco. E lì a San Francesco va, dove vanno le coppiette. Prima, adesso via Milano, zone alte, viene bene anche per i DX lì. C'è Gianni, so che va a Piazza dei Segni, non lo sento ogni tanto, sono qui in Piazza dei Segni a fare collegamenti, e chissà che collegamento sta facendo. Ma io vado di giorno in Piazza dei Segni, e un tempo già si andava, alle 9 tutte le coppie suonavano il clacson, alle 9 tutti quanti, bibi, bibi, bibi, ma metto ancora il grande lupi danzato. Si riempiva a Piazza dei Segni. Sì, lascia perdere che io certe volte andavo al tappetino in pieno giorno. Non si può dire niente, lasciamo perdere. Aia. Troppo scabroso. Oh, cose già fatte per me. Qualche volta andavi al mare, sai quelle cale dopo la torre di Platamona, più in là, e trovo il maniaco sempre a costo di precipitare in volo, dal burrone mi spiava. E noi io facciamo vedere l'infarto al maniaco. Yuhu! E una volta un amico mio era acciappato, era dentro la torretta e lo stava guardando. Lui ha detto aspetta, la tipa gli ha detto un attimino che devo andare a fare la pipì. Lui era stato sempre lì a guardare, lui aveva fatto il giro da dietro, la bicicletta ha detto adesso paghi il biglietto, se io ti do una giussa, almeno impari, devi pagare il biglietto perché guardate il film. Noi ci divertivamo, e sempre in quel punto, una volta con un altro ragazzo, che allo stesso questo stava guardando verso questo ragazzo con la ragazza, e io mi sono messo dalla parte opposta alla spiaggia, verso il maniaco, oh guardone! Allora quello di giù se n'è accorto, insomma l'abbiamo inseguito in due sopra. E il tipo è fuggito, era vestito tipo, sai gli autisti dei tram o dei pullman, camicia celeste e pantaloni blu scuro. Dove c'è qualche autista o di pullman o di tram, non lo so, chi si veste così. Sì, lì alla torretta è pieno di guardoni. Me l'ha raccontato anche il mio professore una volta a scuola, che mentre faceva l'amore con la ragazza ci ha visto questi occhi attaccati al vetro di dietro. Sì, guarda che il figlio di Vela 3, mentre era alle grandi manovre di notte, si è trovato il tipo con gli occhi attaccati al vetro. Lui è partito in quarta, l'ha inseguito, la ragazza urlando, aiuto, aiuto, una pazza sembrava. Ma corrono come conigli, adesso me la racconto una. Allora, a me mio cognato mi ha raccontato che una volta era con mia sorella lì, di fronte dove c'è la prima la clinica oculistica, ai giardini pubblici, là. Si è parcheggiato con la macchina e si stavano baciando. A un certo punto dice che c'erano tutti i parcheggi liberi e questo camioncino targato un ruolo rosso, che poi io l'ho intravistato altre volte, dice affiancato, proprio attaccato alla macchina, e praticamente questo qui aveva un buco nel telone e faceva il giro, dice che ha fatto il giro, è come un coniglio, cazzo, è saltato dietro e c'aveva il buco nel telone e guardava, e mio cognato se ne accorge e mi ha solo detto, ma io faccio finta di baciarci così almeno lo becco, e ha preso praticamente e se ne sono andati, perché il tipo, cavolo, se ne è sceso dal furgone, no? E si è avviato. L'ha raccontato a me, un giorno l'ho fatto io con la mia ragazza, e si è avvicinato il tipo con la macchina targata a nuvolo, col camion targata a nuvolo, poi lo faceva anche a quadrato. Si è attaccato alla macchina mia e io ho aspettato mentre stava per salire da dietro nel camion, l'ho tirato la gamba e lo stavo per picchiare, cazzo, e cominciato a correre come un coniglio, ma correva, mi ritoccava di piedi a sedere, correva come un coniglio, cazzo, era attacchiato, era un tipo sicuramente del Morese, perché il camion è targato a nuvolo, era un M40 rosso, ma lo ricordo ancora. Già, mi sono quasi tutto il passaggio perché sono stato convocato, dai, mi dispiace. Ho dovuto aprire di nuovo in camera perché poi ho scoperto dove arrivava il coso. Ho cambiato la spazzatura ieri, quella per dei gatti, no, lì. C'erano i secchi o la bustina. Attorno all'ora di morto. Cioè, questo cibo dei gatti veramente diventa putrido il giorno dopo. Io, vabbè, stanotte la devo buttare la mondezza, ma è possibile che a distanza di poche ore peggiori così tanto? È già puzzolente, certo, la mangima è già puzzolente da quando lo apri, io me lo ricordo. Se ce n'era un tipo che puzzava già da quando lo apri, perché ci mettono degli attrattivi, capito? Per attirare il gatto a mangiare quelle cose lì, ci mettono degli attrattivi. Ma durano poco questi attrattivi, perché dopo poche ore diventa fogna, diventa pucci pucci. E io mi sto buriando di avere sti gatti in camera, mi sa che li faccio mangiare qua nel salone, cioè perché li faccio mangiare in camera, perché se io non controllo, quella più grossa ruba tutto il cibo all'altra, capito? Ci devo essere io presente. E tu prima fai mangiare quella che viene trafugata, diciamo così, e poi fa mangiare l'altra, quella che mangia un pezzo. Sì, anche, ma devi chiudere la porta, perché sennò lei, se ha uno spiraglio, entra e si spazzola tutto. Come giro le spalle un istante, la vedo che si sta ingottando tutto. Vedrai che questa finisce al forno, te lo dico io. Ti fa aspirapolvere. Luca, avanti. Emanuele, ha chiuso anche. No, non l'ho sentito io, vabbè, Luca sta sempre facendo roba nel frattempo. Emanuele, boh, forse si sta preparando ad andare, non lo so. Dimmi in breve quell'aneddoto che mi hai detto. Allora, quando ero giovane, che ero fidanzato, praticamente mio cognato mi aveva raccontato che con mia sorella si sono parcheggiati ai giardini dove c'è la prima clinica oculistica di fronte, e a un certo punto dice che era pieno tutto di parcheggi liberi, e a un certo punto arriva questo camion e invece di parcheggiarsi da altre parti si è attaccato proprio a loro, e praticamente lui ha detto, cazzo, come mai con tutti i parcheggi che ci sono si è attaccato a noi,